Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati per l'ultima puntata della stagione di Zibaldone. Di cosa parleremo quest'oggi? Vediamo se lo capite con questa melodia di fondo. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Ai, ai, ai, ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai. Ai, ai, fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre se non arrivi tu. Luglio sarebbe un grosso sbaglio. Ai ai ai ai, Banzo, fammelo anche tu questo ritornello di Riccardo Del Turco. Bentornato Banzo per quest'ultima puntata. Luglio si sta avvicinando già purtroppo alla fine, oggi è il 19 luglio come sapete, e noi siamo qui per la settima edizione di che cosa? Lo vuoi dire tu ai nostri ascoltatori? Delle canzoni dell'estate, ma prima avrei dovuto dire buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Ah, sì, buon pomeriggio. In effetti credo che Luglio di Riccardo Del Turco sia la canzone che abbiamo trasmesso più volte, un po' perché tu ne sei un grandissimo fan e un po' perché è diventata l'introduzione ufficiale di questa serie, che è la più lunga fra le varie che abbiamo proposto negli anni, perché appunto, come dicevi, siamo già al settimo volume. E di solito quando cominciamo un monografico c'è sempre lo spazio per una breve introduzione, ma in questo caso è quasi pleonastica perché siamo appunto a un'edizione già avanzata e il titolo è autoesplicativo, cioè sì. Proponiamo canzoni che hanno a che vedere con l'estate, a volte in modo anche completamente pretestuoso, però è anche il bello di questo gioco perché ci permette di selezionare la musica più disparata, ecco. E come? Prima di passare, sì, di entrare nel vivo di questa selezione, Steven, permettimi di dire però qualcosa su Riccardo Del Turco, interprete di questa Luglio nel 1968, perché abbiamo qualche novità che lo riguarda, cioè nel 2024 è tornato alle uscite discografiche con I colori della mia vita, primo album da 40 anni a questa parte, la sua ultima incisione era stata Serena alienazione, titolo non lo so, forse profetico, presentata a Sanremo nell'84. L'album, quello nuovo, I colori della mia vita, presenta una nuova versione di Luglio, perché tu sai che i cantanti a volte sono incatenati ai loro successi. Spiegaglielo ai Rolling Stones e con Satisfaction. Comunque noi andiamo avanti, rimaniamo nell'Italia degli anni 60, un passo indietro dal 63, e troviamo Mina con questa La ragazza dell'ombrellone accanto. Ero soltanto la ragazza dell'ombrellone accanto, ero soltanto l'avventura che dura pochi giorni. M'hai conosciuto e t'ho detto sì, tu m'hai baciato e t'ho detto sì, ma fin da principio non ho creduto di trovare in te l'amore. Ero soltanto la ragazza dell'ombrellone accanto, ero soltanto Questa canzone uscì alla fine dell'agosto del 1963 e Banzo cercò di eguagliare il successo di vendite di Stessa spiaggia, stesso mare, che era stato pubblicato proprio pochi mesi prima. Aveva avuto un enorme successo, la voce di Mina ancora giovane. Parliamo di un testo scritto da Vito Pallavicini, una canzone ovviamente estiva, la musica è di Vittorio Buffoli ed è un twist molto brioso, anche se in quel 45 giri sul lato B venne pubblicata Mi guardano, che è una canzone che sembrava annunciare la svolta di Mina, che l'anno successivo abbandonerà la sua prima casa discografica, con cui uscì anche questa La ragazza dell'ombrellone accanto, la Ital Disc, e passare poi alla Rifi, con cui cominciò insomma un repertorio che potremmo definire più maturo. C'era Tony De Vita ad arrangiare. Crisi, perché di solito hai fatto la parte che tocca a me, quindi mi tocca dirti grazie Steven, preciso e puntuale come sempre. E beh, diciamo, una canzone che cercò di emulare il successo di Stessa spiaggia, stesso mare, nessuno spoiler, non ce la fece, perché insomma la ricordano in pochi, non è fra i brani più famosi di Mina. Ma è curioso perché il testo praticamente si presta a un anacronismo, cioè quello che Mina descrive, cioè la voce la protagonista femminile del brano descrive, è praticamente un atto di friendzoning, cioè dice a uno spasimante no, ma guarda, è meglio rimanere amici. Quindi è di straordinaria attualità, nonostante sia un brano del 1963. Esattamente, più di 60 anni fa. Noi andiamo l'anno dopo, al 64, proprio 60 anni tondi tondi, rimaniamo sempre più o meno in zona Riviera Romagnola, qui andiamo un pochino più a sud, nelle Marche, troviamo I Ragni con Nell'acqua salata. Quando soli nell'acqua salata parleremo dei nostri domani. Io lo so, mi verrai più vicina, non vorrai più staccarti da me. Quando soli nell'acqua salata ci terremo felici per mano. Dalla spiaggia lontani saremo e nessuno vederci potrà. Sulla sabbia bruciata dal sole, mentre tutti ci stanno a guardare, non potremo parlarci d'amore ed andremo a tuffarci nel mare. Quando soli nell'acqua salata parleremo dei nostri domani, dalla spiaggia saremo lontani e nessuno vederci potrà. Beh, qui rispetto al brano di Mina, Banzo, avviene tutto a largo nel mare, ben lontano, no, da quella spiaggia affollata, un surf beat balneare molto tipico dell'epoca. Sì, un brano scritto da Gian Pieretti, insomma, un personaggio che ha lasciato una traccia negli anni 60 italiani. Il vento dell'est rimane tuttora quello che molti critici musicali potrebbero definire un pezzo della Madonna, e scusa se sono stato troppo formale, ma tornando ai Ragni, che appunto, i Ragni nell'acqua salata fa un po' ridere, raccontando il nome del gruppo e il titolo del brano, provenivano da, giustamente detto, dalle Marche, per la precisione da Tolentino, provincia di Macerata, e questo brano, dall'arrangiamento bizzarro, questi fiati abbastanza preponderanti, era il lato B della canzone Tutto bene mi va, il loro secondo e ultimo 45 giri uscito per l'etichetta Vedette. Rimasero attivi fino all'inizio del decennio successivo e a quanto pare ancora si riuniscono, ormai credo incanutiti, periodicamente nelle Marche, quindi possono avere, immagino, uno status di culto locale, ecco. Vedremo, sì, comunque insomma, se non sono incanutiti saranno tinti, ecco, perché avranno un'ottantina d'anni suonati. E Banzo, noi andiamo al decennio successivo, gli anni 70, troviamo una grande voce, non dico chi è, perché secondo me i nostri ascoltatori forse la riconosceranno, e non solo i nostri ascoltatori. L'avrete riconosciuta, dai, io penso proprio di sì, l'imperatrice del soul, Gladys Knight and the Pipes, Summer Sun, 1975, Banzo, eh? Sì, e forse i nostri ascoltatori più fedeli possono avere un piccolo déjà vu, però non temete, non si tratta di un caso alla Riccardo del Turco. Effettivamente anche nelle canzoni dell'estate dell'anno scorso avevamo messo un brano di Gladys Knight and the Pips che era It's Summer del 68, mentre quest'anno appunto Summer Sun, che comunque per quanto riguarda il testo è più una canzone d'amore che una canzone sull'estate, tratto dall'album Second Anniversary uscito per Buddha Records nel 75, quindi 7 anni dopo It's Summer. Ci sta a scrivere una canzone sull'estate ogni 7 anni. L'imperatrice del soul, dicevi giustamente, ha compiuto 80 anni a fine maggio, anche se è praticamente ritirata, le sue ultime incisioni risalgono al 2014, però si tratta di più di 50 anni di incisioni, considerando che cominciò con i Pips nel 61. Comunque nel 2019 sembra che abbia cantato l'inno nazionale al Super Bowl, sappiamo cosa significa per gli americani, ma questa scelta di cantare fu ricevuta con polemiche, perché eravamo nella fase della polemica su Colin Kaepernick, l'inginocchiamento, certo, insomma, ricorderemo. Andiamo certo. un po' fuori tema, ma diciamo che appunto Gladys Knight difese la sua decisione di aver cantato al Super Bowl. E comunque, insomma, vi abbiamo proposto un grandissimo brano di Black Americana e noi siamo contenti così. Siamo contentissimi. Rimaniamo negli anni 70, però proprio alla fine andiamo in questo caso dall'altro lato dell'Atlantico, in Irlanda del Nord, e troviamo gli Undertones. Baby, baby, what can I do? You know you drive me crazy when I'm looking at you. The summer's really here and it's time to come out. Time to discover what fun is about. Here comes the summer. Here comes the summer. Here comes the summer. Keep on looking for the girls with the faces all grim. The land and the beach is all covered in sand. Stretching out the long legs, lying in the sun. Nel 1979 questo singolo degli Undertones, Here Comes the Summer, che non è forse una delle loro canzoni più conosciute, non è iconica, no, come Teenage Kicks, però insomma è sempre una canzone che ci riporta questo gruppo che forse si può definire, Banzo, il primo pop punk group della storia? Ma guarda, fra i primi sicuramente. Ho scoperto recentemente peraltro che la definizione di pop punk girava già negli anni 70. Io, con la mia presunzione, sai, di aver vissuto quel periodo, pensavo fosse un'invenzione degli anni 90, invece praticamente diciamo che dall'inizio del punk si cominciò a parlare di pop punk, e forse gli Undertones ne sono stati un'incarnazione perfetta, perché benché siano stati influenzati per loro stessa missione dalla primissima scena punk, si formarono nel 75, quindi loro c'erano già quando emerse il punk, poi hanno intrapreso un suono diverso, più melodico, anche a livello di tematiche testuali non c'è la frustrazione sociale del punk. E comunque, visto che citavi poi la voce di Fergal Cherokee, ma anche quella molto distante dal punk classico, ma visto che citavi Teenage Kicks, appunto, e parlavamo di cantanti, per così dire, impiccati, uso un termine un po' forte, ai loro grandi successi, gli Undertones, appunto, potrebbero seguire un destino analogo, perché sono ricordati fra gli appassionati di musica per essere gli autori del brano preferito di John Peel, il DJ della BBC leggendario, che era appunto Teenage Kicks. brano uscì nel 78, Peel se ne innamorò perdutamente, ci sono anche aneddoti su Wikipedia se li cercate, e fino al 2004, anno della sua morte, ha ribadito questo amore per Teenage Kicks, che non è la mia canzone preferita, ma riesco a capire perché si gasasse così. Comunque, il problema è quello di potersi perdere altri brani bellissimi, come questa Here Comes the Summer, spensieratissima, bellissima, ma anche una It's Going to Happen, non la possiamo mettere adesso perché è fuori tema, ma andatevela a recuperare, altro pezzo splendido per quanto mi riguarda. Scavalchiamo negli anni 80 e torniamo in Italia per questa canzone di Angeleri, era il 1983, magari non lo conoscete, Un'estate di sesso. Che le vide nella voce rock. Versami del whisky che beviamo un poco. Spegni quella luce che ti insegno un gioco. Vediamo chi per primo c'ha la pelle d'oca. Un'estate di sesso. Sì, di sesso. Una bella estate di sesso. Sì, di sesso. Guarda quell'impianto che sono in riva al mare. Pezzo di straniero che non sa nuotare. Buoni italiani, mangiare, ma tu cosa hai capito? Che volevo fare quest'estate al mare. E quest'estate al mare. Per giudicare le tette più nere nelle cabine a fare l'amore. Un'estate di sesso. Sì, di sesso. Forte la sbarbina con la mini coda. Peccato che non voglia farsi accarezzare, ma dopo lei mi dice come fosse niente. Ci mettiamo nudi per guardare il mare. Quest'estate. In auto non ci fermiamo mai. Così, quando sarai tu a fermarti. No! Attenzione! Dall'11 luglio vivi le due facce del lato più oscuro della natura. Dal 17 luglio al cinema. Vabbè, è tornato anche uno dei nostri trailer, insomma andatevelo a vedere questo film, io Banzo non so di che cosa parlerà in realtà, le due facce del lato più scuro della natura, comunque noi andiamo a bomba perché sennò qua il tempo è sempre tiranno in radio, ci siamo ascoltati Angeleri, Un'estate di sesso, era l'83, l'immaginario hot delle vacanze, l'avete capito, al mare, testo censurabile al giorno d'oggi, nei primi anni 80, molto discutibile, sì, è vero, insomma concentrato tutto questo immaginario in una canzone che poteva comparire, dai, diciamoci, nei film di Vanzina, di Gigi Andrea, di Jerry Calà, insomma quelle commedie estive di 40 anni fa. E Luciano Angeleri, in arte appunto solo Angeleri, cantautore e pittore vercellese, che riprende, no, le tematiche Banzo di quella sua Andiamo al mare dell'80, roccheggiante, che in fin dei conti con uno stile un po' più funk toccava sempre le stesse tematiche, l'estate. Sì, le tematiche, diciamo che è una erotomania piuttosto spinta, sì, e senza controllo. Diciamo che non abbiamo trasmesso questo brano non perché vogliamo dire politicamente corretto non si può dire più nulla. Io sono stato un po' in imbarazzo ascoltando questo testo, però è stato utile ascoltarlo per, insomma, farci un'idea di cosa poteva circolare in un altro periodo storico. Ecco. Sì, è interessante però, insomma, anche tra l'altro il ritmo funk, no? Che era un po' alla moda in quell'epoca, proprio, insomma, abbiamo parlato recentemente della scomparsa di Pino D'Angiò e la sua che idea è un po', insomma, scoppiazza Angeleri qui Pino D'Angiò, no? Il parlato con la voce un po' roca che cita Pino D'Angiò. E ultimo dato, il brano fu rilanciato 3 anni fa, nel 2021, da un remix del producer B-Plan, alias Giuseppe Fimiani, e è stato anche ristampato recentemente da un'etichetta romana, no? Che si chiama Maledetta Discoteca, un nome, però difficile scegliersi un nome più efficace di lei. Ma andiamo avanti, Steve, perché ci spostiamo in Francia in modo abbastanza inatteso. Sì, nel 1982, stessi anni, Richard Gotener, spero di pronunciarlo bene. Yuppie, è l'estate, insomma, tradotto letteralmente. Banzo, c'è molta ironia in questa canzone di Richard Gotener, che tra l'altro, appunto, non a caso, non era solo un cantautore, ma anche un comico molto popolare in Francia. Esatto, è tuttora attivo in TV, quindi diciamo che l'ispirazione farsesca e ironica di questo brano è voluta decisamente. Ed è una satira degli stereotipi vacanzieri, perché il testo dice: è estate per sempre, l'ha detto il meteo, andremo a vivere nudi su un mucchio di sabbia. Quindi c'è un po' questa sottoscrivo, presa per il culo. Come? Sottoscrivo. Sì, so che tu sottoscrivi, io invece amo anche l'inverno. E, beh, diciamo che è un po', sì, la satira era sulla visione idilliaca che si aveva dell'estate, delle vacanze, dei media. Comunque, la parabola personale di Gotner, che non è molto noto in Francia, ma in Italia credo non sia molto noto, comincia negli anni 70 come creativo pubblicitario, interprete di jingle, Perché comunque 3 anni dopo questo 45 giri che abbiamo appena sentito, realizzerà un album intero di slogan e canzoni per la pubblicità che si chiama Puala la Pub, cioè letteralmente capelli nella pubblicità. Qui ci sarebbe da scavare, ma manca il tempo. Eh sì, vabbè, però insomma abbiamo fatto un piccolo sguardo anche oltre Alpe. Il sound tra l'altro era molto bello di questa canzone. Andiamo avanti e arriviamo proprio all'inizio degli anni 90. Già nel 1990 usciva questo brano di Io la Tengo. Streets tonight, I see a simple time. I see the warning light, and the summer comes undone. No sorry closing eyes, no cutting down to size. No other thoughts arise, and the summer comes undone. Levate la versione malinconica in formato canzone dell'estate, eccola insomma, eccola qui. Io la tengo, The Summer, 1990, Banzo, questa sì che è una versione che a te piace molto, lo so. Sì, dopo il brano di Godmier è stato veramente un salto ardito, ma ci sta. Beh, Io la tengo, comunque sono un nome leggendario dell'indie americano, da Hoboken, New Jersey, non il luogo più estivo del mondo, credo. E appunto non hanno mai avuto un successo incredibile, ma rispondono perfettamente alla definizione di un gruppo di culto. Quindi questa canzone è tratta da un album del 90, Facebook, nessun riferimento a Zuckerberg, perché insomma nel 90 Facebook quasi non c'era 20 ancora. Anni prima. Sì, abbastanza, 17 circa. È un disco delle sonorità acustiche caratterizzato da molte cover, tipo Cat Stevens, mi sembra. Nella evoluzione del gruppo è importante perché il primo, era già un disco molto avanzato, però è l'ultimo prima dell'entrata di James McNeill al basso, che venne a costituire il classico terzetto line-up che rimase inalterato per 25 anni, che tuttora porta avanti il progetto Io la Tengo. Quindi diciamo che potrebbe essere considerata una canzone un po' del primo periodo, anche se in realtà erano attivi già da 6 anni. E l'estate tornerà nel loro repertorio con Summer Sun del 2003, un album, però non è il titolo dell'album perché non c'è una canzone omonima. Ascolta, a proposito di arditi cambi di ritmo, in questo caso invece facciamo un bel volo pindarico temporale, perché quasi di 30 anni arriviamo al 2018 con Kaneko Ayano con questa Summer Vacation. Beh, ma proprio bello questo brano, allegro in realtà, anche se si chiude con un verso che dice perché non mi piace l'estate. Banzo, un volo pindarico a livello temporale ma anche geografico, perché siamo passati dagli Stati Uniti, siamo andati dall'altro lato del Pacifico in Giappone per trovare questa giovane cantautrice indie pop di Yokohama che è classe 1993, quindi quando è uscito questo brano aveva appena 25 anni. Sì, esatto, Kanekoyano, appunto. Questo brano è tratto dal suo terzo album che si chiama Shukusai, cioè Festival, e ha già 6 album all'attivo. Comunque, diciamo che si è mantenuta attiva, non è molto nota da noi, come prevedibile, perché insomma, la barriera linguistica è fortissima, però i più accorti l'hanno potuto conoscere perché Any Other, cioè un artista che abbiamo più volte proposto anche qui a Zibaldone, ne esegue un brano dal vivo, quindi diciamo che da lì si può arrivare a Kanekoyano, che ci ha sorpreso con questo brano, sì, appunto, dolce amaro, insomma, non siamo in grado di apprezzare tutte le sfumature del testo, evidentemente, però anche a livello musicale alterna un inizio molto lento a un finale più brioso. È un bel contrasto emotivo, e il giapponese, se mi permetti, una volta usciti dalle paludi del J-pop, suona da Dio. Sì, guarda, sono d'accordo con te. Altro volo geografico e temporale, 20 anni indietro, 1998, e andiamo in Scandinavia, in Svezia più precisamente, e troviamo questa band che fa del bel punk rock. Sentitevela. Stop it! Summer Holidays vs Punk Routine, loro sono i Refused, 1998, l'album si intitolava The Shape of Punk to Come, e so Banzo che è uno degli album della tua vita. Sì, esatto, non è un'iperbole, è veramente un disco che sua memoria ho adorato in ogni sua sfaccettatura, ed è comunque considerato da più parti uno degli album più influenti del punk hardcore tutto degli anni 90. Fu un canto del cigno per i Refused, perché cominciarono come gruppo hardcore, poi arrivarono a questo album ambiziosissimo, eclettico. Questo brano che abbiamo appena sentito non rappresenta appieno, diciamo, lo stile degli altri pezzi, e appunto si sciolsero poco dopo con un manifesto, proclami roboanti, Refused are fucking dead. Tornarono dopo 14 anni, poi in pianta stabile dal 2014, hanno pubblicato altri dischi, però insomma, cioè, rimango un po' nostalgico e attaccato a questo, cioè, che veramente aveva tracciato degli scenari per il punk hardcore possibili che non hanno seguito in tanti. E come dicevo all'inizio, a volte il richiamo all'estate dei brani è pretestuoso, perché qui il brano ha più, diciamo, un tema che non ha nulla a che vedere con l'estate, quanto piuttosto la tenacia nel perseguire obiettivi personali anche al di fuori del mainstream, perché qui il riferimento al punk non è casuale, ecco. Andiamo un po' a sud, Banzo, dalla Scandinavia passiamo in Germania. 2017 usciva questa canzone, che vi dico dopo come si titola. Sommerferien in der DDR, vacanze estive nella DDR, nella Repubblica Popolare Tedesca, Democratica, scusate, tedesca. Loro sono i Ludger, Banzo, una band di Amburgo che però in realtà, insomma, non è che abbia molto a che fare con il fenomeno della cosiddetta ostalgia, ossia la nostalgia dell'Est e della DDR. Sì, esatto, cioè, se sono di Amburgo, diciamo che è un riferimento più che altro ironico, perché insomma la DDR è un po' un campo iconografico sterminato, però non lo so, magari alcuni dei membri sono un quartetto, possono avere un'origine all'est. Comunque non è dato saperlo, perché sono pochissime informazioni su questi Ludger, appunto abbiamo detto da dove provengono. Fra il 2010 e il 2017 hanno pubblicato 3 album, questo brano è tratto dal loro ultimo, si chiama Nibul Drama. Non so se si sono sciolti, non ne ho la più pallida idea. Comunque il suono che avete sentito in questo brano è abbastanza rappresentativo, midtempo a manetta, punk rock e voce sgraziatissima, ma che rimane impressa. Comunque, se volete cercare di capirne di più, potete leggere come ho fatto io le note interne di Nibiru Dharma, le trovate su Bandcamp, però dopo rimarrete, potrete rimanere delusi, perché sostanzialmente è la descrizione di un sogno pieno di draghi e rinoceronti. Comincia proprio l'altra notte, ho sognato che quindi non si capisce, poi c'è qualche credit, ma non si capisce esattamente in che modo sia collegato questo sogno alla musica dell'album. Vabbè, I have a dream. Vabbè, insomma. Esatto, lasciamo comunque il mistero che è sempre affascinante. Ci stiamo avvicinando alla fine, Steven. Eh sì, mancano 10 minuti e noi voliamo subito nelle Azzorre. Andiamo più a sud, insomma, climi più estivi, per così dire, anche se sull'Atlantico, con i Flipping Candy. Sentitevi questo brano. Poteva mancare il brano strumentale banjo anche in questa Canzoni dell'estate volume settimo, con Flipping Candy, Summer is ending too soon. Speriamo di no, dico io, perché insomma le vacanze qui ancora non le abbiamo fatte. Comunque insomma spieghiamo un po' chi è Flipping Candy, ossia Luis Couto dalle Azzorre, dicevamo. Sì, dalle Azzorre, come hai già detto, è un musicista, secondo Discogs attivo almeno con altri quattro progetti. E appunto questo Flipping Candy ha un solo album all'attivo, all'inizio del 2022. Il titolo è From a Cosmic Childhood, quindi diciamo che a livello tematico già stiamo inquadrando qualcosa, ed è uscito, sì, appunto nel 2022, per un'etichetta portoghese della breve vita, Prisma Sonora, che si dedicava a sonorità fra la library music e l'ontology. E diciamo che ci sta Flipping Candy, perché ha questo approccio retro in comune con questi generi, però le atmosfere misteriose e inquietanti vengono lasciate completamente da parte. Ci sono questi quadretti psichedelici, gioiosi, giocosi, perché appunto anche il titolo From a Cosmic Childhood, Summer is Ending Too Soon. Diciamo che questo album è tutto un tributo alla sconfinata immaginazione dell'infanzia, come con, non lo so, con le cose più minime si riusciva a giocare, a creare, a costruire mondi, e la musica ne è un po' un riflesso, è spensierata, leggera, però appunto ha questo tocco retro che potrebbe anche sfociare nel malinconico, con uno sforzo concettuale. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di Zibaldone, che in realtà, come sapete, è anche la fine della stagione 2023-2024 del nostro programma. Noi ovviamente ci ritroveremo a settembre per una nuova stagione, più freschi, energetici e anche ovviamente ergonomici che mai, però ovviamente c'è il tempo per un ultimo brano, per salutarci. Siamo partiti dall'Italia e torniamo all'Italia, arriviamo a Barcellona, nostra terra d'adozione, dove siamo qui con Radio Contrabbanda e con Zibaldone da oltre una decina d'anni, però per una cover di una canzone italiana. Siamo partiti da, ovviamente, Luglio di Riccardo Del Turco. Chiudiamo questa puntata, Banzo, con Fred Bongusto, Una rotonda sul mare, in una versione però di una band molto famosa negli anni 60 a queste latitudini, Los Gatos Negros. Esatto, come si intitola la versione spagnola? Si intitola Una rotonda sul mare, perché il testo sia stato adattato in spagnolo, anche se non è accreditata la traduzione, quindi non sappiamo chi l'abbia scritta in questa versione spagnola, il titolo è rimasto identico ed era un gruppo, Los Gatos Negros, che ha avuto vari cambi di formazione, ma comunque prediligeva un repertorio più anglosassone, poi c'era la casa discografica che faceva delle pressioni, mettete qualche brano più commerciale, quindi più easy listening, praticamente gli mise in repertorio la canzone di Fred Bongusto, che uscì a stretto giro pochi mesi dopo, praticamente in contemporanea con la versione italiana. E d'Italia altra parte mi permette anche di salutare, visto che stiamo chiudendo la puntata, il nostro Fausto De Salvia, sì, che bravo, è stato con noi per tutta la stagione, a volte ai microfoni, però assolutamente imprescindibile, necessario e fantastico per la mole di lavoro dietro le quinte che ci ha permesso di portare a casa questa stagione lunga, complicata, ma anche molto bella. Eh sì, e anche questa puntata, appunto, delle canzoni dell'estate. Un grande abbraccio a Fausto, lo ritroverete anche lui dopo l'estate per la nuova stagione di Zibaldone. Noi ci salutiamo con Los Gatos Negros, su Una rotonda sul mare, cover di Fred Bongusto, anno 1964, e vi auguriamo un buon fine settimana, una buona estate. E come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galván, tutti i venerdì verso le 17.55 diceva: comunque c'è una seria possibilità che il nome artistico di Flipping Candy, che abbiamo appena sentito, derivi dall'espressione candy flipping, che indicherebbe la pratica di mescolare l'LSD e l'MDMA. Io, come sai, sono storytelling, non ho mai provato, ma insomma lo lascio qui a futura memoria. Il che fa capire anche qualcosa di più sulla sua musica. La lasciamo qui, Banzo, buona estate anche a te, un abbraccio a tutti, fate l'amore con il sapore, godetevi questa rotonda sul mare in versione barcellonese. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suena. Nuestros amigos bailando, mas tú no estás junto a mí. Cariño mío, dime si estás triste también como yo. Dime si tú ya no recuerdas los días y noches de amor. Si tú eres feliz como ayer, o sufres por mi altura vez. Te recuerdo junto a mí, recuerdo una rotonda sul mare, y nuestro disco que suena. Nuestros amigos bailando, mas tú no estás junto a mí. Recuerdo una rotonda sul mare. Il nostro disco che suena, nuestros amigos bailando, mas tú no estás junto a mí.